sono del 70 e ho compiuto gli anni venerdì scorso. Allora, sono del 70, sei 2 anni più grande di me. Grazie, grazie. 50, vabbè, li abbiamo presi. Sì, gli anni fa, è importante passarli bene, dai. È importante invecchiare bene, no? Con i problemi. Comunque ciao a tutti. Stavo lavorando nel PMR. Ma sono, ho avvisato anche io, ma niente me ne frega a me. Allucinante, blu. Ma se stesso, otti in PMR. Che ci stanno mandando in PMR la nostra conversazione. C'è Claudio, No, c'è gente che ci sta registrando, ci sta ascoltando e nello stesso tempo sta mandando in PMR in 446-081 la nostra conversazione. Mamma mia, cosa vi dico? Hai capito, Giovanni, cosa è sentito? Che noi stavamo modulando e ci stanno registrando che ce la stanno mandando in PMR, la modulazione nostra. No, sono i gusti, Gabbo. No, sono i gusti che ci prendono a fare queste cose, per carità. Buonasera a tutti. No, non ti stanno registrando, mi stanno proprio trasando, capito? Anche la mia voce, guarda, se io sollevo il volume, guarda. Lo vedi, mi sento io. Lo vedi. Allora devo tenere abbassato. Ma non è da Sassari però, non è dalla Terroccia, non è dalla zona nostra, è qualcuno là fuori, perché segnale non ne ha. Da me c'è. Da me mancano 3 pacchetti al fondo scala. Fatemi. Anche io ho dovuto abbassare. Perché sono innescato. Ma non frega niente. Allora ti avvicino più dalla parte tua, allora fai 2 conti, non lo so, no, rompo le palle, io ho spento perché a me non mi va a sentire queste tronfate, si sta sporcando veramente anche lì, vabbè, pazienza, vai. Allora, buonasera a tutti, circolare, rimanga in ascolto, va bene? Qua segnale non è attino, fidati che passa Luca, passa Graziano, addirittura sento anche a Gianni. Passano tutti, se è così alto è più dalla parte tua, allora dai, sei più aperto tu, dai. Vi saluto, buon QSO a tutti, ciao. Sì, ma non mi importa, Santiago 9, da queste parti, poi, non mi interessa. Bene, Mera, riprendi Giovanni. Ce n'era uno. No, qua no, più giù, molto più giù, che faceva due lavori, trasaltava su tutti i canali faceva, quello lì. E ma da parecchio che lo sento, Ora si è andato a Viale San Paolo, poi a San Ciappacore e tornando a fare il sudravaggio, Ma se sapete chi è, ditelo, perché non si possono fare certe cose. Uno perché disturbi, uno perché è un reato, capito? Non si può traslare. Se uno sta parlando tranquillo in una frequenza, vabbè, speriamo che si brucia la radio, brutto passaggio. Vabbè, dici una cosa del genere, animale che non c'è altro, cazzo. Vedi che sia un animale. Io spero che si buci la casa, no? La radio. Ma che c'è da salire, mi dicevo. Ehi, ma se a Tino gli arriva a Santiago 9, è più verso casa di Tino, verso quella zona lì, perché qua segnale non ne ha. Passano tutti, però mi rompo le scatole sentire queste cose, dai, non va bene. Ciao a tutti, vi saluto, ciao. Ciao Claudio, da me non sta arrivando per niente. È zero che zero. E allora è vicino Latino, non lo so. Forse qualcuno volontariamente che c'ha il microfono da tavolo e c'è, vedi, adesso è attaccato. Non è volontariamente. Ma stia molto attento però. Stia molto attento a fare queste cose, capito? Perché gente stupida in radio non ce n'è, c'è gente molto molto intelligente. Per carità, che punto ci arriva, io. E c'è stato bene, a Ciappallo, faccia a faccia, Assicuro un anello, un po' carino, per farlo tornare a farlo. È uno schifo, Giovanni, anche l'altro giorno qua, mi eravamo iettore sul 23 ed era una bottante. È uno schifo, veramente, dai. Io spero che non ci costringano a stare a casa, perché sennò veramente ce la fai di nuovo la guerra. E senti davvero la guerra, allora, eh? Avevi detto con tutta l'italiente che fa lo baracchino o lo BMR per disturbare. Ma se devi parlare, è un piacere parlare. Cosa ti metti a disturbare? Sai che la frequenza è morendi, da noi si muore nemmeno lui che hanno per i cattoli. Io non lo so che questo ci prendono, eh. Vabbè, facciano come vogliono, io non ci sto più ai giochi, Manuel. Non me ne frega più niente. Se è possibile parlo, se non è possibile sto zitto. Riprendi Tino, voglia. Non faccio più peso a queste cose. Se vogliono divertirsi così vuol dire che non hanno niente da fare e che non sono sane di mente, quindi lasciali fare. A me, se mi piace cambiare le chiacchiere, faccio direttamente anziché stare lì a rompere le palle. Sono d'accordo con te, eh. Fate girare, Toro, riprendi e fai girare tu, rimango in corretti. Ciao a tutti. Infatti da fastidio, da non lo so, boh, gli italiani convinta che possano fare tutto, ma speriamo che li trovino qualcuno. Vabbè, riprendi Giamari. Giamari. Giamari si è spostato sicuramente. Cinque per l'antenna, sempre lì, eh. Sempre lì, oddio, sempre lì, perché se no si poteva, già lo sai. L'ho vista, l'ho vista. Siamo passati per prendere un attrezzo da lì da quel magazzino, eravamo lì, insomma, e abbiamo visto. Questa è, per essere lì già esce, no? Sì, va bene, va bene. Cazzo, l'ho messa su, per carità, non cava proprio segnale, ok. Abbiamo provato, riprovato nelle zone, spostato, fatto, niente da fare, entrava. Cos'è? Ma io ho detto, vabbè, sei l'unico posto, ciccia. E poi ci sono i muri che sono tutti nati, per carità, 50 anni c'hanno quei muri lì, sono tutti nati rugiurati. Cioè, va bene, da, ti fai sentire, quindi. Vai, to. Fatto bene, lasciala lì. Io ti sento, gli altri ti sentono tutti, quindi già esci bene. L'avevamo messa, non so, continuo, ma continuo, con Luca, abbiamo provato a metterla, come l'abbiamo installata e tutto, cazzo metti che chiave, si va già niente lo schermo, abbiamo provato a impulcarla da macro lungo, più lontano, uguale, niente da fare, dava interferenza. Allora meglio lasciarla in civica allo GUE e fai bene, così almeno non disturbi a nessuno ed esci bene. Infatti a Luca gli ho detto ascolto, un lampa tutto nello Iacina, un lampa tutto Iosso, paro, tanto vita. E l'abbiamo messa a provvisorio nella pianta, era lì da prima, allora, ma perché paro non ne avevo, non c'avevo nulla. E da lì ho provato a vedere, non disturbava, mi sentivano tutti. Poi quando ho preso il palo con il telescopico l'ho messa lì dove adesso, nel muro, con sinistra di palo. E va benissimo, ma non disturba nessuno. Infatti è fatto bene. È fatto benissimo, è così. Ma magari crea un problema la gente, vedi, che dai. E poi no. Fino. Adesso passo dietro, dottore, gli faccio uno scherzo, gli metto lo chiodo, le metto. Cazzo, lascia perdere che me l'hanno fatto una volta, sì, 30 anni fa. Non era ancora ragazzina, me l'hanno fatto, ma me ne sono capizzato subito, però. Il brutto di quelle cose è quello, perché chi ha l'antenna bassa e il cavo è accessibile un po' a tutti, ti vogliono fare uno scherzo brutto, non è che giustamente, quando moduli sono piano, se carico il stazionale sono te ne accorgi e bruci la radio, e tutto è quello. No, oh, è bello che me la, l'antenna ce l'avevo sul tetto allora, ce l'avevo la manto, ma me ne sono accorto subito dalla ricezione, che ricezione proprio, era proprio nulla, capito? Ascoltavo tutti in basso. Poi da lì abbiamo messo lo strumento, si vedeva che c'era il cavo a massa. Un casotto, Ti stai portando appresso, torna col rumore, Manuel. Ancora? Ancora rumore, Tom? No, adesso no. Vabbè, dai, tanto domani lo tolgo, metto l'altro microfono, ma non lo porto. E cos'è? Cosa ti è successo? Oh, ah, esce il disco rumore, ogni tanto esce il disco rumore. Cosa ne so, ogni tanto la macchina sta con il microfono. Ah, non capisco. Vabbè, qualche filino c'è che magari tra tocca non tocca. Ah, lì da due colpiti nella capsula e non lo fa più. Io avevo un microfono così, quando mettevo un P5 avevo così. Quando con la mano toccavo la cassa esterna, facevo alternata, quando invece schiacciavo la portante dal PTT in plastica non faceva niente. Adesso non lo fa, ma lo sento anche io quando lo torno a fare. Però secondo me è dalla capsula, perché gli do due colpiti davanti e non lo fa più. Vuoi controllato, Va bene, devo fare due cose al computer, devo leggere un pochino di cose che mi devo concentrare. Sono qua comunque, magari se ci siete ancora dopo, più tardi entro. Riprendi, Tore. Io, Kitty, va benissimo. Hai compreso, Manuel, è così, Vabbè, dai. No, io, guarda, sinceramente, comunque, ciao, ci sentiamo casomai più tardi. Sinceramente, se disturbavo anche qua, non ne avrei usato, Otto, perché a fare tante prove, quando l'abbiamo messa su, guarda che mi ero rotto già proprio le scatole. La spostavamo da una parte e dall'altra, io dovevo anche fare dalla botola per vedere se disturbava e tutto. Alla fine mi sono scuffato con un caduto iosso, a Giuseppe, tu che mi sono parato. L'abbiamo messa lì, ho provato, ti ho detto guarda se disturba qua, guarda non pongo più nulla, mi pongo tutto. Poi alla fine l'ho messa lì vicino alla pianta, allora ti ricordi che era attaccata alla pera. Cazzo, eppure usciva benissimo e mi ascoltavano tutti. E non entrava neanche un filo di nulla. E poi alla fine ho comprato il tubo telescopico e l'ho fissato lì nel muro. E tutto era lì, e andava. Lì la lasci. La lasci lì, non disturbi né nulla. No, non ne voglio problemi con nessuno, capito? No, adesso non va bene, perché non va bene neanche adesso fare altrove. No, non mi piace. Prima me ne fregavo, sì, ma ero più ragazzino, disturbavo lo stesso quando ce l'avevo su. Però me ne sbattevo le scatole. Ma adesso, cazzo, non aggiungavo io da 50 anni attaccavo i guaglietti, stai disturbando qui, stai disturbando là, capito? No, ma sali e va bene, no, non disturba nessuno, non disturba me neanche agli altri. E fai bene. C'è signor Bacchiglio. Ciao Bacchi, buonasera. Come faccio così in basso? Adesso ho aumentato. Ehi, allora sei tu, andare. Stavo commutato l'antenna. C'è l'antenna. Cazzo, occhio però Bacchi, occhio. Allora bene vera. Guarda questo segnale, poi mi dai un altro controllo su un altro radio. Sì, 9:20 qua, la radio è Super 5, bella chiara. Tore, tu non me l'ascolti. Ah, vai a costume. Ah, vai, Edo, insomma, era a 7.000. Sì, non aveva commutato. Era sotto commutazione. Avanti, signor Bacchi. Da lei, dottore. Prova a vedere. Dottore. 9.20, sì. Non sto uscendo? Sì, mi stai arrivando 9.20, quasi 9.30, si può dire. Radio perfetta. Emanuele. Lo stesso, Bacchi. Perfetta, bella radio, bella modulazione, Super 5. Super 5, Super 5, Super 5, non è esatto, no? No, per me qua è Chiara. Sono Chiara e mia nipote è a casa sua. Bella Chiara, non so se ti ascoltatore, penso di no, ti ascolterà per anche lui, anche lui. Te l'ho già detto. Te l'ho già detto, signor Bacchi. Andare. Va benissimo allora. Tutto a posto, posso fare il caffè quando voglio. Sì, sì. Ce l'hai attaccata la caffettiera, sì. La caffettiera è stata adesso, vediamo un po' se è in evoluzione. Quando è pronto il caffè di Miro, Emanuele, la caffettiera è in funzione, tra poco vuoi uscire un caffè. Cosa che scende, un caffè con la cremiva. Ehi, super espresso. Mare Randa Ghisu, pur abortante, so di attento, non è muove. Aiuto. Abortante, se puoi. Abortante, buonasera. Non aggiungete di noi, se muove abortante a noi. Ce ne devi fare la vagogna. Anda. A parte chi voleva entrare. Cappadone o so. È che pure entra abortante. Ehi, forse no, non se ne è accorto che siamo più forti. Giacca. Oui. Buonasera a tutti. Vabbè, a tu, buonasera. Buonasera. Mezzo sparato, so che arrivendi, va. Ha già comprato l'antenna, sa di sì. Cattami messo. La boomera me l'ho messa come i cristiani, adesso non mi dà neanche più stazionaria, niente, va alla grande. No, già deve bene, vai tu. Sai che stamattina, prima di alzarci, era in mezzo all'accesso, per quello arrivo a forte. Vera tu. Quando era l'attirotti, era sempre la portante, vera. Ma a me il caso strano mi arrivava a fondo scala, a fondo. Vuol dire che era uno scemo di lì, era. Sicuramente sì. E adesso c'è Caimado e ha detto, beh, ora non la bongo più. Va, mettiamo pure solo la faccia in culo. Vabbè. Sarà così. Ma Gio Maria che fine ha fatto? Gio Maria ancora ci sei. Evidentemente c'è la gente, so. Signor Bacchisio, ancora ci sei. Andiamo bene, andiamo. Credo c'è in campagna, signor Bacchi, stasera. Certo che andiamo a muovere. Cinco, riprenditela. Ehi, andare così, così. Vai, fandeva, che tu freschino sta facendo, La temperatura è calata ancora. Domani mi hanno detto che ha messo il tempo brutto, Altri freddi lì. E così ha detto. Ma, però qua a casa mia io c'ho caldo, cioè si sta bene, cavolo. Guarda, io siamo in perizoma, ma è appetuto. No, qua si sta bene, vabbè che è una casa piccola, molto calda, dove abito adesso. Prima ogni fibra di cosa era freddo, dove attendi effettivamente la stufa. Qua ti dico che si sta veramente bene. Basta che accendi già la cucina e c'è già caldo. Dove stavi da tua madre? Qua. Dove stavo la mamma, da papà, là, diciamo, c'è molto più freddo. Andare. Ascoltami, vabbè, Antu, ma tua madre faceva di serra? No. Come faceva di cognome? Mia madre? Poverina. mia madre le faceva corazza. Corazza, sì, la cugina di mamma era. Può essere. Come può essere, veniva anche a casa tua madre. Sì, può essere, non me lo ricordo adesso. Sicuramente sì. Corazza è la mia nonna, la madre di mamma. Allora è parente, sicuramente. Certo, è parente, erano cugine. Veniva a casa, te l'ho detto, veniva a casa la mattina. Sì, capo, non glielo posso più chiedere, perché anche lei non c'è più. Ma è morta da tanto? Più di 2 anni. Mamma è morta già da 3-4 anni già che è morta. Capo. Purtroppo non glielo posso più chiedere, perché sennò mi avrebbe detto tutto. Lo so, infatti veniva. Poi veniva, non so, con la sorella, con i capelli biondini. Magari con Pina o con l'altra? O quell'altra che ci assomigliava di più? Con Pina, quella robusta. Sì, sicuramente. Sì. Una volta ti ho visto anche alle poste, ti ho visto con lì. Alle poste? Tu a me? Sì, ti ho visto con lì pure. Non lo so. No, ma mica non ti stai confondendo con Giovanna. Comunque eri tu, dai. No, c'è poco da sbagliare. Sicuro è sì. Sì, tranquillo, Marco, tranquillo. Vai, Tom. Tu hai parlato di mamma e coso? Vado già 18 anni io. Non so, Tom. Però, per carità, fanno male a dire queste cose quando... 3 anni che sono passati, più di 3 anni, 4 anni buoni che sono passati che è morta. Mio padre che è morto già da 15 anni, mio fratello è morto 1 anno, l'altro mio fratello è morto lo stesso 1 anno. Su, grazie. Non ti manca niente. Bianco, che io devo andare un attimino, devo scendere giù un attimino a fare una cosa. Ci risentiamo dopo. Via, ciao tu. Capito, tu. Era quest'anno, è 1 anno di merda, era quest'anno per me. Capito. Io potrei dirmi. Già passa, non è solo batte a un bel niente così. Già passa, non va a passare. Sì, già passa sì, però cazzo a morire uno di 45 anni, l'altro aveva 62. Purtroppo questo è un anno brutto e vabbè, già purtroppo ce li ricordiamo più avanti. Un anno di merda, non un anno brutto. Quest'anno era proprio un anno da schifo. Era un anno da schifo proprio. Vabbè, dai. Cambiamo ragione che mi dà. E Bacchisio, riprendi che va chi? Io riprendo io. Il caffè stavo quasi salendo, A Marino non hai sentito, Pacchi? Nulla, sono 3-4 giorni, non sento né Marino né lo vedo né niente. Già ci sentiamo, già ci vediamo. Nulla, invece che con Romincio andate a caldo. sta lavorando forte Marino. E poi ieri mi sembra che è uscita l'1:30 nel Bari. E oggi doveva fare il giardino, doveva tagliarsi l'erba, doveva fare un bel cosa. È un bel cosa, se non faccio più dal giro, sarebbe più da prendere, non è bene. Cosa deve mettere? Quella l'erba sintetica? È diserbante di faccia quando sta facendo l'erba, rimane sempre pulito, fa 1 anno rimane pulito. Anche quello, vedo, anche il diserbante va bene. E vabbè, adesso cresce tanto perché tra il sole e l'acqua è normale che cresce un bel epa, va. Questa cosa non è una l'epa, uia, è poca bella. Esce proprio uno squillo, va. Vabbè, dai, mi approfitto per staccare, dai. Ciao Tore, ciao Pacchisio. Che mi assento, dai, mi assento che devo fare cose in casa. Ci sentiamo. Ciao Gian Maria, se ci sei in ascolto, ci sentiamo domani, dai. Dai, riprendo io. Ciao Emanuele, salutissimi, buon lavoro in casa, buon a tutto. Ci sentiamo domani, ci coincide. Se io sto facendo squillare il telefono a Marino, vediamo un po' se mi risponde. Già risponde, già risponderà, che già risponde. Vabbè dai, salutamolo se in caso entra in frequenza, dai, ci sentiamo Matti. Ciao a te, anche a te. Ok, ciao Manuel, stammi bene, ci risentiamo magari domani. Ok. Anto, ancora ci sei. Marino è dormito. Stamattina l'ho sentito. Aveva messo a posto l'apparato e tutto quanto e poi ha chiuso perché doveva tagliare l'erba, se no va gente i bacchi. Io ieri sera mi sono collegato un po' tardi e ho sistemato quello che detto là. Oh, l'ha messo a posto. Quella soldatina fredda c'era. Certo, andiamo e andiamo. Sicuramente l'ho cercato, ho visto che era vuota, ma tu sì. Adesso comunque è saldatura e la cosa funziona. Cos'è c'è un bacchi? Ecco, ho messo un po' di saldatura e tutto funziona. E va tutto bene. Ah, ma così funziona la bacchi? Non so come strano, non so perché. Ma questo, il gemello di questo? No, è la cafettiera mia che ho. Qua sotto la cafettiera, che uso a fare così un caffè o un latte caldo, la pizza. E la uso saltuariamente, si ferma. Ieri notte l'ho fatto funzionare, adesso sto funzionando, sto facendo un caffè. Via da te. Via da te che per dire fa un caffè. La cafettiera è andente, la foto. Se la ci avete più bene. Bisogna saper fare tutto sole. Sì. Bisogna fare così, bisogna fare. Sai se sia quello di papà. Mi fa la mestiere, con la parte. Infatti è così. Deve sempre imparare. Ok. Sbagliando si impara. Tutto. Sbagliando ho imparato un po' di cose. Pure per la figlia fa del bene al culo. Ehi, vabbè, se andavano a te ci fossi. È così, è stato. Non c'è nulla da fare. Non ho venuto che fa. La vecchiaia che non è buona. No, ma mal di testa la stavo da ieri sera. Se guardo ai nostri, era sudato. Dove ci sta pure, mi ha fulminato. E qui la collega puttana di oggi è ancora in alto. Allora poi dopo mi ha insaccato la tacchipellina per il lato. Piano con le pastiglie, signor Bacchi. Ma che ha pigliato freddo, è pigliato, ma ti sei uscito. Infatti, cavallami, il mio pigliamento è stato un cipente, un caldo, meraviglioso. Ora non freddo. Devi stare attento a come esce, gli devi dare parte, devi. No, oh, mi pare fosse un buco di usuraggio, ma mi si va sotto. Che da chi è? Ah, tu vuoi farmi? Posso riempire la camera da letto. Apro il portellino, mi si vede che non sarò letto. E io ti grido. Sarà così, sarà. Andiamo, beh, andiamo. Avanti. Sì, già di sono vero, già di. Non sa fa vedere altro. Non entra, signor Bacchi, su. Deve darci un po' ancora qua, deve darci. Sia selvatico, non penso. Lo gioco di tendio, già di sono a vero, già di. se non si affavida, peggio che di te non si affavida. Hai però agito la cavuccia, ma ha detto che no, è meglio che ci abbia a Canari, se in Andia. È una cucca, è un amico. Ma se no non vuoi entrare, hai detto di entrare, non entra. Sa di solo è vero, boh. Chi va a prendere a più? Boh, non lo gioco, anda bene. Va bene così. Ma il Morino non è un telefono, né alla radio. E si era impegnato, vuol dire che va gente per telefono per anche a quattro lunghi. Io, cazzo, signor Bacchè, domani è un'altra di... Domani un altro giorno si vedrà. Domani è il tempo freddo e si prendiamo per l'acqua. Sì. Ha messo tra nuvola, sole e temporale, però temporale non l'ha posta da che si abbassi, in giro. Sì, ma quasi luglio che viene più burro, la rompi l'estate. Andiamo bene, andiamo. Male, male, non bene, male. Male così. Devo vedere un po', no? Io sono dritto, si molto proprio cazzo. A me? Mi sa che non vedesci a passare. Basta domani la permesso e dovremmo passare. Avanti che vuoi entrare. Vedi che non vuole entrare il signor Bacchi. Ti ha giudito io. Ah, io vado a parlare. Però prima ho pensato a parlare con qualcosa, parla con muro. Signor Bacchi ha detto che non vi vuoi entrare. Io non posso parlare, non posso parlare. Ma, boh, cosa vuoi che ti dica? Io sono un po' infatti. Ehi, vabbè, non c'è una pigida. Tanto, e gli darà battenda. Circa 33. Io ho pensato Ehi, signor Bacchi, tu basta su dalla, anda bene. E io, signor Marino, ci sei? Signor Marino, o se sei un bicchierino? Mi pare che deve essere impegnato, se no era entrato. Attenzione, signor Marino! Signor Bacchi, vuol dire che no... Ma oggi c'è la festa, la latte dolce. Festa. Su un mese e altro, boh dai, boh. Ah, c'è un po' la campagna. Sopra. Due mancanelle, due mancanelle, la polizia, non mi dà. Infatti, no, tanto non usciva. Non è uscita. Quindi... prossimo anno può andare tutto bene, ma che dovrebbe non fare più. No, ho migliorato, mio proprio giambolo. Io se ne è andato, ma ti ha fatto brutta figura. Se ne è andato, anche la cosa, a nulla. Quindi ha fatto tante cose, pure a va, ma ha fatto nulla. Adesso ritornerà come era prima. Sì, quest'anno sì, sono le messe in buco, e sarà il prossimo anno a sapere qualcosa. Sì, l'ha messa nel cortile c'era, perché sono passato lì, c'erano i vigili fuori, due bancarelli e non vera altro. Due bancarelli, non vera nulla. Poi le gente che mi ha bocca ti vera pure un freddo. Infatti ha girato, che c'hanno a girare da freddo, ha girato. È una perturbazione, ne abbiamo fino a mercoledì. Tanto, è così. E così è. E va saluto, me ne vado giù. Ci sentiamo, dottore, sotto la signora, a domani se coincide se la chiacchieriamo ancora oppure ce la vediamo, andrà bene meglio. Del controllo, partita sotto il finale, e vai in cuore del ti prendi dopo. Così va benissimo, dai, ma chi? Neanche io chiudo, per arrivare tutta la gira a Cesio. Ok, ci risentiamo, ciao Bacchi. Ciao.